Capitolo 2 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore Di Giacomo. Capitolo 2. Serafina, martedì, maggio 86. Guardaporta dell'ospedale dei Pellegrini è un burbero rossiccio, il quale, quando in certi giorni è infilato un soprabito che gli batte le calcagna, tutto stinto e sparso di macchie d'olio, quando ha caricata la testa ad una tuba mostruosa, crede di essere guardaporta di Palazzo Reale. Ha conservato un accento calabrese e la insolenza dei soldati borbonici. Certo, ha dovuto servire nell'esercito di Rembomba. Tra l'altro, poco ci vede, per una congiuntivite che gli arrossa tutto intorno le palpebre. Sarà stato per avere continuamente avuto sott'occhi gente insanguinata. Ieri questo cerbero digeriva il pranzo, trattenendosi a parlottare con un vecchietto, quale gli faceva delle confidenze presso al casotto. Poco prima la campanella di avviso era suonata due volte. Tocco solo vuol dire ferito semplice, due vogliono dire ferito in grave stato, tre ferito moribondo. Era stata trasportata su alla sala delle medicature una donna, una giovane, cinque coltellate, né più né meno. La donna si lamentava, si guardava intorno smarrita, mormorando: «Sant'Anna mia, le faccio lo vuoto, scansatama! Oh, oh, Gianuchiana!» Veniva da Piazza Francese, da una delle due suburre napoletane. Aveva denti e capelli splendidi, una mano piccolissima, gli occhi grandi, azzurri, pieni di lacrime, lucevano. Si chiamava Serafina. Laggiù, presso al casotto, il portinaio fumava la pipetta. Il gran cortile dei Pellegrini era tutto preso dal sole, cosicché il cuoco, un uomo grasso, ne approfittava per sciorinare il suo gran moccichino, a quadroni scuri sulla spalliera d'una seggiola. Due guardie di pubblica sicurezza leggevano insieme un libretto di nuove canzoni napoletane, come intanto. Il brigadiere era salito in sala di medicatura per raccogliere la deposizione di Serafina. Diceva il vecchietto al guardaporta: «La vedete così ora? Perché lei è nata con la mala sorte, come me. 2 anni fa avreste dovuto vederla. Era un fiore.» Tutti si voltavano per la via. Allora, come ho detto, io lavoravo da quel sarto alla Giudecca. Io dormivo nella bottega, sopra un divano sconquassato, e pensavo sempre a lei, che se n'era fuggita. 3 mesi senza vederla. Considerate voi che siete padre. Avete figlie? Caspita, figlie, ne tengo tre. Peppenella, Peppenè!» E chiamava una ragazzetta che era fuori nella via a giocare. «Trasa, vieni qua, sienta, quella è una...» «E a badatele, ve lo dico, come a un fratello», il portiere sorrise. Fece scivolare la mano tra lo stipite del casotto e il muro e tirò fuori un bastone. «Vedete questo? Questo ci pensa, senza eccezione pure per moglie, ma... Dicevate? Dunque una sera, che sera? Io non ho vergogna di dirvelo. La verità, m'era messo in giro per chiedere le elemosine. All'angolo del vico sergente maggiore vedo una signora che comprava fiori. M'accostai. Signò, qualche cosa a un povero galantuomo? Non c'è niente. Io avevo fame, la fame, capite, non conosce educazione. Insistette. Allora lei si voltò per dirmi, seccata, che me ne andassi. Non mi guardò neppure. Era lei. Serafina.» Il vecchietto sospirava. Si guardava le mani scarne, dondolava il capo. A un tratto guardò in su al balconcello della sala di medicatura. Un inserviente preparava filacce presso alla balustrada, parlando col cuoco, che di sotto gesticolava e rideva. «Che le starranno facendo?» mormorò il vecchietto. Due lacrime gli vennero giù lentamente per le gote. Il portinaio votò la pipetta nella mano e, dopo un silenzio, chiese: «Beh, quanto durò quella vita?» «Nanno. Poi fu come una caduta, come uno che cade da una terrazza dall'ultimo piano e si trova a terra. Povera figlia, stette malata 2 mesi, perdette tutto. Diventò un'altra, cappello tolto, anella pignorata, vestito venduto. Che mestiere, frate mio, che mestiere! Gesù!» Ora piangeva pienamente, con lo sguardo a terra, con le mani strette sul petto. E all'ultimo è arrivata a Piazza Francese. L'hanno fatto questo, ma pare un suono. Ma chi gliel'ha fatto? Due compagne, poi gelosia. Arrivò in quel momento una vettura. Dentro vi si abbandonava un giovanotto e aveva buttato un braccio al collo della guardia, la quale lo sorreggeva guardandolo. Un sottil filo di sangue gli scendeva sulla camicia bianca dal collo. La vettura entrò nel cortile con dietro una folla di gente curiosa. Il vecchietto, anche lui, si accostò, inorridendo. Il guardaporta afferrò la fune della campanella. Tre tocchi. La guardia di pubblica sicurezza gli aveva fatto certo segno disperato. Poi la gente fu cacciata e il portone chiuso. «E chi se n'ata?» disse il guardaporta, tornato al vecchietto. Quello mormorò «Poveriella!» Dopo un momento chiese «Serafina, resta qua?» «Non si può, dopo medicata andrà agli incurabili. Donne qui non se ne ammettono», rispose il Cerbero, tornando feroce e voltando al vecchio le spalle. Serafina fu scesa a braccia e collocata in vettura con le guardie. Fu levato il soffietto e nessuno vide più niente. Ma ella aveva visto il vecchietto. Una mano venne fuori tra serpa e soffietto e chiamò. Il vecchio accorreva. Dalla vettura uscì una voce femminile commossa. «È incurabile! Venite là! Non è niente! Non avete paura!» Il vecchietto si mise a galoppare dietro alla carrozzella con gli occhi pieni di lacrime, ansimando, chiamando «Sarafì! Sarafì! Sarafì!» Fine del capitolo 2, registrato da Davide Lequile.